Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchessi, oggi è il 24 febbraio della prima edizione di Italia in controluce. È un numero unico di Italia in controluce interamente dedicato alle colonne sonore di grandi film. Sì, perché attraverso la musica di Nino Rota oggi praticamente vi raccontiamo l'Italia. Il reportage di Giovanni Bracco. Con questa canzone per il film Treno Popolare incominciò l'avventura di Nino Rota come autore di musiche per il cinema. Era il 1933, Rota aveva 22 anni e il regista Raffaello Matarazzo 24. Autori esordienti, giovani, affamati di futuro, Rota, di cui il mondo della musica celebra i 100 anni dalla nascita, era stato un ragazzo prodigio anche come compositore. Poderosa la sua cultura musicale, era una spugna che assorbiva ogni lezione, trasferendola poi in un mondo particolare, pieno di grazia, estraneo ai tormenti artistici del Novecento e anche ai rigidi steccati fra tradizione colta e musica popolare. Un neoclassico per certi versi, come spiega il pianista Giuseppe Albanese. Dunque, indubbiamente Nino Rota è conosciuto dal grande pubblico a livello mondiale per le sue musiche per film. Come compositore però di musica definita colta, anche se oggi non è più di moda questa parola, ecco, come compositore di musica classica Nino Rota comunque si iscrive in un filone molto particolare, prettamente neoclassico, anche se ci sono pagine molto romantiche come il concerto in Mi, Piccolo mondo antico, e ricorda quasi, potrei dire, una sorta di Prokofiev all'italiana. Nino Rota era un creatore dalla vena inesauribile, come ricorda la regista Lina Wertmüller, che nel 1964 lo ebbe come musicista della serie televisiva Il giornalino di Gian Burrasca. Lui non faceva nessuna distinzione fra i vari tipi di musica, dalla canzonetta all'opera lirica alla musica sinfonica, era tutta musica. Lui era una persona fatta di musica, era certamente ispirato, era profondamente ispirato, cioè gli cantava dentro un sacco di musica ed era, in questo era bellissimo. Infatti noi con Gian Burrasca facemmo 70 canzoni in pochissimo tempo, perché era veramente pieno di musica. Lui aveva nel suo studio, mi ricordo, un armadietto tutto pieno di carte di musica, di cose scritte di tutti i generi, veramente ne aveva fatte di tutti i colori, ecco. E devo dire, aveva fatto anche tantissimo cinema, anche prima di Fellini, perché era forse il più amato dei nostri musicisti. Come nacque La pappa col pomodoro? Come nacque La pappa col pomodoro? Nacque come nascono le cose, così, perché vedi in testa quel pa, perché in realtà uno quando canta fa pa, in qualche maniera La pappa col pomodoro venne pensando proprio alla maniera di citare le musiche quando uno non si ricorda le parole, facendo il pa. Poi Rita Pavone ci mise il suo beat, il suo yeah. A Nino gli piaceva moltissimo Rita. In quegli anni Rota aveva già avviato e consolidato il matrimonio artistico più fecondo, quello con Federico Fellini. Il musicista ne parlava sorridendo. La musica dei film di Federico la facciamo talmente svelto che per decenza sarebbe meglio non farlo sapere a nessuno. Beh, perché potrebbero pensare che la facciamo non con facilità, ma addirittura con faciloneria. Fellini e Rota, una saldatura artistica ancora più forte di quella che si creerà col tempo tra il regista e il suo alter ego Marcello Mastroianni. Il cinema italiano si arricchisce di un altro autentico capolavoro, La strada. Raramente lo schermo ha raccontato con tanta intensità e tanta efficacia una storia più nuova e più coraggiosa. La storia di Gelsomina e Zampanò. Una storia che ricorderete sempre con profonda commozione. Ma voi perché mi tenete con voi? Io non sono bella, non so far da mangiare, non so far niente. Ma che diavolo vuoi? No. Vai a dormire, vai. Adesso ti sposerei. Tanto se dobbiamo stare sempre insieme. Qui ci vorrebbe, e solo tu puoi farlo, una musica che rievocasse l'atmosfera del circo rievocasse la Marcetta dei Gladiatori, ma fosse completamente differente. Cioè, un ricordo della Marcetta dei Gladiatori. Mi rendo conto che è un discorso un po' confuso e anche un pochino difficile, però proprio per seguire questa operazione, che credo sia abbastanza riuscita del figurativo, bisognerebbe fare la stessa cosa sulla colonna sonora, cioè dare il profumo della musica del circo. L'indimenticabile finale di 8 e mezzo, ma sentiamo come Rota stesso racconta ancora le indicazioni contraddittorie di Fellini. Magari dice: fai un motivo allegro ma che sia triste, un motivo vecchiotto ma che sia nuovo, un motivo spensierato ma patetico. Eravamo stato tutta la giornata a cercare, cincischiare, non usciva niente. Finalmente, al momento di andar via, suono un motivo. Federico si ferma, dice: guarda, questo va bene, con questo ci facciamo tutto il film. Rota aveva e avrebbe collaborato con tutti gli altri più importanti registi italiani, da Luigi Zampa a Mario Monicelli, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli. E meglio, secondo me, è sempre stato per il cinema Nino Rota. Romeo e Giulietta trasuda passione. Then have my lips a sin that they have took? Sin from my lips? Oh, trespass sweetly urged. Give me my sin again. La prima edizione di Italia in Controluce, cercate il nostro blog, i contenuti audio di questo programma su radio24.it, cercateci su Facebook, Twitter, attraverso la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna in diretta oggi alle 13.30 con un numero unico dedicato all'immigrazione e ai flussi migratori tra Libia e Italia.